Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, 40° del primo tempo, 0-0 a Johannesburg, ancora tra Olanda e Danimarca. Più tardi alle 4 toccherà a Camerun Giappone, ma stasera soprattutto sarà la volta del debutto dell'Italia. Ci sono due ipotesi, per la verità, sulla formazione azzurra. C'è una quasi unanimità sul fatto che i due esterni saranno rispettivamente Zambrotta a destra e Criscito a sinistra, e c'è invece la versione Gazzetta dello Sport secondo cui sarà invece Maggio a giocare a destra e Zambrotta a sinistra. Insomma, questa è l'unica variabile possibile, a quanto si è saputo sino ad ora, a meno che poi Lippi non spiazzi tutti. Tra poco c'è l'intervista, tra poco vi daremo il flash di intervista canonica, contrattuale al TG1 delle 13.30 per sapere se per caso, cosa che escluderei, si è sbilanciato su questo punto. Di sicuro è che stamattina l'Italia ha dovuto annullare l'allenamento previsto per maltempo, perché piove e fa freddo, e quindi, anche se è da un'altra parte, io chiedo a Fabio Tavelli dallo studio centrale di Sky Sport 24 a Johannesburg com'è la situazione meteorologica per l'Italia. Buongiorno, guarda, la situazione meteorologica me l'hanno raccontata stamattina Alciato e Veronica Baldaccini ed è brutta, perché piove e pioverà tutto il giorno. Le previsioni non hanno sbagliato. A Cape Town anche la settimana scorsa c'erano stati 3-4 giorni di pioggia intervallati da un paio di giorni di sole, proprio quando la perturbazione era salita da Cape Town fin qui a Johannesburg per il giorno dell'apertura. Qui però non ha mai piovuto. Oggi qui è una meravigliosa giornata di sole, molto ventosa, molto fredda questa mattina. Adesso si può stare anche con la giacca all'aperto, però cioè, chi sta guardando la televisione o chi ha visto qualche immagine ha visto, insomma, che il Soccer City Stadium è molto ben soleggiato, e devo anche dire non pienissimo, nel senso che c'è qualche seggiolino vuoto, e vuvuzela abbastanza tranquille, non troppo forti. E ti dico anche il perché: io in questo momento sono qui all'International Broadcast Center, cioè sto a 250 metri, 300 al massimo dallo stadio, e non le sento, mentre invece il giorno della partita del Sudafrica contro il Messico da qua sembrava di averle praticamente a un metro, perché era un frastuono impressionante. Intollerabile. La stessa FIFA sta facendo un pensierino, insomma, alla possibilità di limitarle, anche se non sarebbe semplice trovare la formula, trovare come. Mancano due minuti alla fine di questo primo tempo non entusiasmante. Tu ci parlavi, ci hai raccontato del vento, lo abbiamo visto da qualche inquadratura in dettaglio, per esempio sulle bandierine dei calci d'angolo. Adesso c'è una palla interessante per gli olandesi, ma gli ha rimpallato il tiro a Van Persie in calcio d'angolo. Ecco, la curiosità è questa: io ho visto in questo primo tempo sbagliare la misura di passaggi abbastanza elementari a gente che ha i piedi di Snyder, per esempio, e di Van der Vaart e di altri ancora. Allora parliamo di questo pallone, perché abbiamo già visto giocare 8 partite, questa è la nona, quindi siamo esattamente alla metà della prima giornata dei gironi di qualificazione. Mi sembra che, al di là delle due papere dei portieri che sono costate il pareggio all'Inghilterra e la sconfitta all'Algeria, mi sembra che fin qui siano i giocatori di campo, più ancora dei portieri, a risentire di questo pallone difficile da controllare. Però correggimi se sbaglio. No, anzi, ti dirò, io dopo le prime due partite mi ero anche lanciato quasi in maniera molto incauta sul fatto che già Bulani non fosse così male. Poi però ne ho parlato prima con Luca Marchegiani e lui mi ha detto: guarda, la sensazione che ho io, dice lui, è che i portieri non siano stati particolarmente penalizzati. E poi gliel'ho richiesto ieri e lui effettivamente sulle due papere del portiere conviene sul fatto di scagionare completamente Giabulani. Parlandone invece con Antonio Di Gennaro e con altri ex giocatori che sono qui con noi, tutti mi hanno detto quanto sia difficile, soprattutto loro che poi vedono le partite più dal campo rispetto a me, per i giocatori controllare questo pallone, soprattutto certo, sui cambi di direzione e sui certo, lanci che attraversano il campo. Cioè quello fa veramente rende difficile il controllo, tenendo presente che anche un paio di gol sono nati da un rilancio del portiere, dove per i difensori è complicato respingere, ma i difensori sono avvantaggiati perché in questo caso non hanno evidentemente solo il problema del controllo come gli attaccanti, i difensori in questo caso possono spazzare. Una notazione statistica interessante, secondo me, è quella sulle punizioni, perché prima hanno visto una calciata da Snyder da una distanza impossibile, eppure la palla è arrivata come un missile verso Sørensen, ma non si è abbassata, cioè i palloni non si abbassano mai sui calci di punizione, solo una di Kolarov ieri pomeriggio con la Serbia l'ho vista leggermente abbassarsi, altrimenti partono i tiri, scavalcano la barriera, ma il pallone non si abbassa perché è molto leggero e quindi in questo caso è negativo nei confronti dell'attaccante e paradossalmente favorisce il portiere. Proprio i portieri erano stati quelli che si erano molto lamentati, ma insomma sembra che invece siano i più favoriti. Non solo, ma ho l'impressione che siano favoriti, adesso poi sul favoriti possiamo discutere, ma che la penalizzazione più forte sia davvero per i giocatori di campo, perché ho visto prima, poco fa, un attaccante, 10 minuti fa, un attaccante della Danimarca fallire un colpo di testa molto facile davanti alla porta. Ora, in queste situazioni la palla ti sbuca all'ultimo perché quello davanti aveva mancato l'intervento, a parte il fatto che nel frattempo è finito il primo tempo sullo 0-0 tra Olanda e Danimarca. Ma ho l'impressione proprio che anche per i colpitori di testa questa possa essere davvero un problema. Secondo argomento che propongo a Fabio Capello, tanto su quello a Fabio Tavelli evidentemente, no, ho detto Capello e Purkos, perché il secondo argomento riguarda Capello. Non è ovviamente una critica, perché non, insomma, diventa difficile permetterselo, però ho l'impressione che lui abbia commesso un errore che 24 anni fa commise Berzot in Messico, e cioè quello di, non avendo un grande portiere di grande affidabilità, quello che dici va bene, allora Zoff piuttosto che Buffon, piuttosto che chi vogliamo, è titolare, li tengo un po' sulla corda. Ora, se è vero, come pare proprio che sia vero, perché c'è un po' c'è qualche tumultino nel ritiro inglese a quanto pare, se è vero che Capello ha tenuto sulla corda i tre portieri fino al pomeriggio della partita e solo poche ore prima Green ha saputo andare in campo, ripeto, Berzot lo fece nell'86 tra Galli e Tancredi e non insomma, e secondo me non è stata una mossa felicissima. Risulta però anche, Gigi, risulta il fatto che questi sono veramente scarsi, cioè di tutti e tre non ne fai uno sufficiente, perché ti assicuro, poi magari, cioè, la differenza tra James e Green è questa, che James ha più capacità di reazione dopo un errore, i maligni dicono ne fa talmente tanti che si è abituato. Green è invece uno che si deprime un po', da quello che mi risulta è che Capello voglia ancora puntare su Green, perché non si fida per niente di James, che non a caso in patria chiamano Calamity, certo. Calamity James, certo. Cioè, uno che ha un soprannome del genere, sì, non hai bisogno di vederlo in campo. Credo invece che i giocatori siano un po' contrariati per questo errore che di fatto è costato la vittoria. Detto questo, le immagini, i tabloid naturalmente hanno massacrato Green prendendolo in giro, perché lui è anche un giocatore di golf e dunque gli hanno consigliato di stare sul green, sempre per dei giochi di parole che vengono più facili con la lingua inglese. Probabilmente Capello ha fatto questo. Io penso che un allenatore dell'esperienza di Capello certe leggerezze non le commetta, e se le ha commesse le ha commesse unicamente portato dal fatto che ha questi tre portieri di assoluta insicurezza. Anche quando aveva un portiere potenzialmente forte come Robinson, poi in realtà Robinson si è perso, perché anche lui ne ha combinate peggio di Bertoldo, e quindi davvero è diventato un problema serio. Adesso diventa un problema serissimo, certo, perché certo. Capello non solo ha un portiere che è terrorizzato, qualunque esso sia, anche una difesa che un po' balla, perché quando c'è da spingere Ashley Cole e Glenn Johnson vanno benissimo, quando c'è da difendere fanno un po' fatica, e John Terry fa anche fatica ad avere un compagno accettabile, perché sia Ledley King che Jamie Carragher non mi sembrano in un momento particolarmente alto della loro stagione. No, io alludevo comunque a un errore psicologico che secondo me invece, io resto la mia idea, è un errore, perché proprio perché non sono così affidabili e arrivi alla fine e devi sorteggiare quasi, insomma averlo sicuro del suo posto e non in tensione fino all'ultimo, secondo me comunque sarebbe un vantaggio, ma questo è un altro discorso. Terzo argomento, cioè io ieri, per carità, per fortuna è arrivata la Germania la sera, che ci ha fatto vedere un po' di calcio contro l'Australia, ma ci ha fatto vedere un po' di calcio e a tratti del calcio di qualità, perché le prime due partite di giornata ieri non eravamo lontano da Giochi senza frontiere, secondo me, tra Algeria, Slovenia, Serbia e cosa. Sento un segnale di linea caduta e allora leggo qualche messaggio, per esempio, a parte che abbiamo già gli ascoltatori in linea. Cesare scrive: ma adesso per la papera di Green vogliamo dare la colpa al pallone? No, Cesare, era esattamente il contrario di quello che stavamo dicendo, cioè non la papera di Green l'avrebbe fatta con qualsiasi pallone, il portiere dell'Algeria si sarebbe tuffato goffamente con qualunque pallone. Stiamo dicendo il contrario, stiamo dicendo che la sensazione è che penalizzi il gioco questa nuova palla che l'Adidas si è inventata. Un altro ascoltatore invece scrive: non fareste prima a fare la pubblicità di Giabulani invece di promuoverlo attraverso raggiri di parole? Firmato Gino. Caro Gino, se le sembra pubblicità quella che stiamo facendo a Giabulani, forse abbiamo due idee un pochino diverse di promozione di prodotto. Insomma, sto dicendo che è una iattura, mi sembra che Tavelli da Sudafrica condivida. Tra l'altro è tornato in collegamento con noi. E l'ultima domanda di oggi era: grazie alla Germania per ieri sera, perché le prime due partite su tre della domenica sembravano l'edizione per l'appunto festiva di un Giochi senza frontiere, no? Qualitativamente. E poi, se Dio vuole, è arrivata la Germania. Guarda, molto bella ieri sera la Germania, aiutata naturalmente dall'Australia che non è sembrata granché, e anche poi dall'espulsione. Però il dato di ieri è un dato importante, è un dato pesante, come pesanti sono i tedeschi, ma pesanti in senso positivo, perché la Germania, io credo che con questo clima, vi assicuro che la sera fa freddo, la Germania diventa un fattore ancora più pericoloso, lo è sempre, perché la Germania comunque ai quarti in un modo o nell'altro ci arriva sempre e arriva spessissimo anche in semifinale o in finale, anche quando non ha grandi squadre, e 4 anni fa era, secondo me, abbastanza bassa come qualità complessiva, e questa non è certamente superiore. Però ha ritrovato Podolski ha fatto un grande gol, secondo me, perché ha tirato un sinistrone veramente forte che ha piegato le mani a Schwarzer, che non è un brutto portiere, e poi ha ritrovato Klose quest'anno ha fatto 3 gol, ieri sera ha già segnato, e lui ha segnato 11 gol nei mondiali, 5 certo. Gol a mondiale sono il suo target, facesse 5 anche in questa edizione eguaglierebbe il record di Ronaldo. Al di là di queste considerazioni, è una squadra molto equilibrata, è una squadra che con queste condizioni climatiche, soprattutto tenendo conto che stiamo andando sempre più verso l'inverno, sì, cioè qui siamo in inverno, certo. Ma diciamo che siamo in novembre e andiamo verso dicembre, per cui anche se è un inverno più temperato, più gradevole, più mite, non dimentichiamoci che un po' si gioca in altura, qui a Johannesburg siamo a 1600, e un po' si gioca al freddo, per cui teniamola veramente d'occhio questa Germania. Certo, e teniamo d'occhio, ringraziando Fabio Tavelli e concludendo questo collegamento, teniamo d'occhio anche la situazione meteorologica a cui facevi riferimento, perché stiamo andando verso l'inverno, ne sanno qualcosa proprio italiani e paraguayani che giocheranno a Cape Town stasera con ogni probabilità sotto l'acqua. L'Italia, vi ricordo, ha già sospeso l'allenamento di stamane per ragioni meteorologiche. Sentirei un ascoltatore che è in linea da qualche minuto già da Bari, e poi una raffica di voci dal ritiro azzurro. Domenico, Bari, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, volevo sapere per quale motivo quasi sempre quando c'è un mondiale, un europeo, c'è questo cambiamento per quanto riguarda il pallone, addirittura poi da sottolineare che va sempre a penalizzare il bel gioco. La ringrazio, l'ascolto per radio. grazie a lei, Domenico. Marketing, la risposta è una sola, marketing. Perché marketing? Ma perché appunto esce un pallone a mondiale ormai da tante edizioni a questa parte, e ogni pallone deve essere diverso da un altro. Perché? Ma perché il marketing che viene fatto intorno a questo pallone ne, come dire, suggerisce, promuove, eccetera, la vendita, o meglio l'acquisto da parte dei fruitori, da parte dei, insomma, diciamo pure dei clienti, degli appassionati, di chi a pallone ci gioca. Sempre a proposito di quel messaggio arrivato prima che diceva ma dovreste essere più cauti, no, nel promuovere Giambulani, dico alla faccia della promozione, ho anche letto tre giorni fa il messaggio di un ascoltatore che diceva io l'ho comprato subito per le nostre partitelle con gli amici, l'abbiamo già regalato ai bambini per giocarci sulla spiaggia, sempre in ottica promozione. Sì, è pubblicità, scrive un altro ascoltatore, e difatti lo voglio prendere per il volley in spiaggia. Beh, certo, pensi che pubblicità calcistica. Le voci che arrivano dal ritiro azzurro, cominciando da Lippi. Se non avete capito la formazione in questa settimana, credo che potete cambiare mestiere. Detto con grande serenità, se non avete capito la formazione potete cambiare mestiere. Cosa vuoi, che alibi vuoi avere? Lo sapete perfettamente qual è la formazione. A nome anche dei colleghi sudafricani, a cui probabilmente non è venuta la risposta altrettanto con lo stesso tono, intendiamoci, perché Lippi stava sorridendo e scherzando, si potrebbe, no? Si poteva forse, ripeto, con lo stesso tono scherzoso, dire che se c'è uno che tra un mese scarso cambierà formazione, questo cambierà mestiere, questo è certamente Lippi, no? Visto che non farà più il commissario tecnico perché ce n'è già un altro pronto che si chiama Cesare Prandelli, però evidentemente sarebbe stata una battuta, credo più o meno dello stesso livello della sua, e fermo restando che questo non impedisce a nessuno di noi di augurare a Lippi di chiudere questa sua avventura, cioè prima di cambiare mestiere di cambiarlo alla maniera di Vittorio Pozzo e quindi di finire con due titoli mondiali anziché uno, il che significherebbe un'altra avventura trionfale come quella di 4 anni fa. Parliamo di mondiale, sentiamo ancora proprio sull'avventura mondiale qual è il punto di vista di Lippi. Tutto quello che precede il mondiale non conta nulla, puoi fare 10 partite bellissime, tutte di grandissimo livello, arriva al mondiale con le sue caratteristiche, con i suoi stati d'animo, con le sue tensioni, con le sue cose e con la validità delle altre squadre e cambia tutto. Oppure puoi fare magari un avvicinamento al mondiale di un certo tipo e poi comincia il mondiale e cambia tutto. Noi non avevamo la sensazione di essere una grande squadra 4 anni fa. Questa sensazione arriva dopo una, dopo due, dopo 3 partite, oppure non arriva. Ma la grande squadra cresce e diventa grande squadra durante il mondiale. Questo è certamente vero, è quasi sempre stato così, ma non significa che sulla base del torneo sudafricano dell'anno scorso e di qualche altro elemento non ci possa essere un po' di sano scetticismo alla vigilia, scetticismo che non vuol mica dire negatività assoluta, vuol dire se non altro prudenza, cautela. Beh, questa è proprio carina, ma ve la dico dopo perché l'Olanda nel frattempo è passata in vantaggio per un altro gollonzo mondiale, probabilmente anche questo generato da questo accidente di pallone, perché è stata un'autorete sfortunata quella del difensore danese, lui ha colpito di testa, la palla è andata sulla spalla di un suo compagno e da lì in porta, però aveva colpito maldestramente, è ovvio, perché sennò rinviava in un'altra maniera, in genere non si rinvia addosso a un compagno. Questo vuol dire che la traiettoria gli è cambiata all'ultimo istante, o comunque è una traiettoria diversa rispetto a quelle a cui era abituato. Un autogol, quando lo vedrete, e qualcuno magari di voi l'ha già visto, un autogol abbastanza incredibile e secondo me figlio di nuovo di questa genialata. A proposito di FIFA, questa è carina, la FIFA ha aperto un'inchiesta per scoprire perché migliaia di posti negli stadi di Port Elizabeth e l'altro di Polo Quain sono rimasti vuoti durante Corea del Sud Grecia e Algeria Slovenia. Forse se avessero guardato le partite, quelli della FIFA magari potevano anche risparmiarsela questa domanda e soprattutto risparmiarsi l'inchiesta, perché la notizia non è che c'erano soltanto 31.513 spettatori a guardare Sud Corea Grecia, la notizia è che ce n'erano addirittura 31.513 su una capienza di 42.000 fischie, e lo stesso discorso vale per Algeria-Slovenia, mancava un terzo di spettatori in uno stadio che ne può contenere 41.000, vuol dire che anche lì era 27-28 di troppo, sempre secondo me. Nino ha chiamato dalla provincia di Como, buongiorno. Eccomi, buongiorno. Buongiorno a lei. Per dire innanzitutto complimenti. Grazie. Ecco, lei sa perché cosa parlo, è una cosa apparentemente frivola. Però io vorrei conoscere il suo parere sul quel sottofondo di trombe o altro che spero di non essere solo a sentire durante le partite alla TV. Non è affatto solo. Tra le tante iniziative che la FIFA sta prendendo, ne abbiamo sentita una prima, quella di questa inchiesta sul pubblico, c'è anche un argine a ste vuvuzelas. Loro hanno sempre detto che sarebbero state una buona cornice ambientale, insomma un segnale di allegria. Stanno leggermente cambiando idea, perché in effetti sono invasive più che invadenti, e a parte il fatto che qualcuno parla addirittura di danni per l'udito, non è da escludere nemmeno questo. E quindi ne penso, cosa vuole che ne penso? Non ho il fastidio diretto, però certamente diventa indispensabile tenere l'audio molto basso anche per le telecronache, per evitare questo sottofondo fastidiosissimo, mi immagino, per chi è allo stadio. Gianni, provincia di Ancona, buongiorno. Buongiorno, salve. Senta, speriamo che questo pallone porti fortuna all'Italia, perché sembra un missile terra-aria. Sì. Vola, non scende mai, anche le punizioni battute da Snyder al primo tempo vanno tutte alte queste palle. Però io volevo parlare con lei, che è un esperto in materia di mondiali, ricordando a tutti che l'Italia dal 1990 in poi si è giocata i mondiali calci rigore, escluso Corea, che siamo andati fuori al Golden Goal. Quindi per noi forse il fattore più determinante sono nella parte, diciamo, finale del torneo mondiale, con l'eliminazione ai rigori. Non prendiamo gol, non lo facciamo e andiamo ai rigori come le ultime quattro volte, nelle ultime cinque edizioni. Quest'anno mi sembra che come rigoristi siamo leggermente inferiori rispetto a quattro anni fa, perché ci manca Materazzi, Grosso, vedo meno rigoristi. Vorrei la sua opinione. Grazie. Gianni, ai rigori non avevo ancora pensato sinceramente, ma credo che ci abbiano pensato pochino anche là, perché credo che anche sugli allenamenti specifici bisogna arrivarci un pochino alla volta per evitare sempre dei surmenage, no? Oggi i rigori fino almeno all'ottavo di finale non sono previsti, se non per la partita in sé, cioè per il rigore che può capitare, e certamente una gerarchia di rigoristi ci sarà già, anzi non può non esserci fin da stasera, ma è una gerarchia però che riguarda il rigore che ti capita in partita, non i cinque rigori finali, è diverso. Io credo che prima di allora ci penseranno, poi dire se ci sono più o meno buoni rigoristi è sempre molto ma molto difficile, perché proprio certi ricordi che lei ha evocato, insomma, quale miglior rigorista di Roberto Baggio, quale migliore buon rigorista, certo non a livello di Baggio ma quasi, di Franco Baresi, che aveva una grande sicurezza nel batterlo, no? È inutile rinvangare momenti amari. Il rigorista migliore è quello che sì ha attitudine, ma poi ha la freddezza e la condizione psicofisica al momento decisivo. Massimo da Cagliari, buongiorno. Salve, buonasera signor Garanzini. Io sono un tifoso del Cagliari, sì. Però volevo dire che sono molto deluso perché Lippi non ha convocato Miccoli al mondiale, perché secondo me ha fatto veramente un gran campionato e lo meritava. Volevo chiedere. Però ci saremmo, scusi Massimo, però ci sarebbe portato un turista al seguito, perché Miccoli ne ha per qualche mese, infortunato seriamente. Non lo sapevo, mi scusi, però volevo dire, secondo lei se stava bene, cioè ci poteva stare bene in questa squadra? Ma magari sì, lui magari non l'avrebbe portato, anzi le tolgo anche il magari, però sa, è proprio una... qui siamo proprio nella lana caprina, non... Vabbè, e poi diceva? No, tutto lì, tutto lì, considerazione, non sapendo che si era infortunata. Certo, molto bene, grazie Massimo. Sentiamo, perché molti ascoltatori lo stanno sollecitando, il caso Vieira. A me sembra sinceramente la tempesta in un bicchiere d'acqua, quella che è certamente stata una gaffe da parte della FIFA, ma insomma, rispetto ad altre che sono state commesse in passato, una gaffe abbastanza relativa. Sentiamo cosa ne pensa il vicepresidente federale Albertini. Penso sia stata una grande gaffa, io ho detto che ripartiamo da dove avevamo lasciato, non ce l'avevamo consegnata prima, non abbiamo potuto ridarla, quindi così è stata, però reputo una grande gaffa e niente di più. Dico solo che tante volte quando c'è l'attenzione anche negativa vuol dire che ci temono, no? E quindi non da parte dell'UEFA ma da parte magari anche delle altre squadre. Il rispetto che sento da parte dei giocatori avversari nei nostri confronti è, diciamo, la cartina al tornasole di quello che è l'Italia, soprattutto in un mondiale. Io sento da parte proprio di chi scende in campo il timore e comunque il rispetto dei nostri campioni del mondo. E questo è certamente vero. Che poi la FIFA abbia peccato di buon gusto è altrettanto vero. La FIFA ha spiegato, poi tutto sta a crederci, che era stato invitato un rappresentante della delegazione italiana per riconsegnare la Coppa, ma peraltro in una manifestazione sì formale, ma non di grande etichetta, no? Visto che Vieira intanto non è un giocatore francese oggi, perché è un ex della nazionale francese, e poi insomma, diciamo, non dico fosse in déshabillé, ma non era certamente in alta uniforme, quindi era un momento di una cerimonia che forse è stato un tantinello sottovalutato sia dall'Italia, se davvero ha rifiutato l'invito, sia certamente dalla FIFA, perché in ogni caso il valore del gesto e dell'episodio rimane. Silvio ha chiamato da Pescara, buongiorno. Buongiorno, senta, volevo parlare un po' dell'avversario dell'Italia stasera, che secondo me è la migliore del girone insieme all'Italia. Non siamo stati fortunati, secondo me, a beccarla come prima partita, perché di solito l'Italia gli esordi spesso, vuoi perché entra in forma dopo 2-3 partite, a volte li soffre molto. Tenga conto che l'Italia negli esordi, nella storia dei mondiali, ha uno score di 9 vittorie, 4 pareggi e 3 sole sconfitte, e che sono state vittorie entrambe per 2-0 le ultime due, quindi questo è abbastanza relativo. Non solo, Silvio, ma aggiungerei che se hai la fortuna di beccare Paraguay, Slovacchia e soprattutto Nuova Zelanda, beh, insomma, almeno poi che ti possa capitare Paraguay la prima, penso che si sarebbe fatta firma prima del sorteggio, no? Sì, mi permette un attimino? Come no? No, certo. Volevo fare i complimenti al Varese, che è tornato in Serie B dopo 25 anni. Certo. E mi dispiace per la Cremonese. Invece non mi dispiace per niente per il Verona, che abbia perso contro la squadra della mia città, per il modo vomitevole con cui hanno fatto il tifo di Sport Spenovenese le due partite, andata e ritorno. Scusi, ma ce l'avevo dentro questo. Ce l'aveva sul gozzo, sì, ma è normale che dalle nostre parti non si gioisca perché, nel suo caso, perché ha vinto il Pescara, ma si gioisca perché si gioisca ai danni del Verona. Sarebbe magari successa la stessa cosa dall'altra parte. Spesso comunque da noi va a questo modo, e non è una grande novità. Abbiamo molte altre voci da sentire, però abbiamo anche un ricco menù di un sembra ieri oggi, che è davvero, cioè, il 14 giugno è successo molto nella storia dei mondiali, soprattutto riferito all'Italia. Visto che stasera debutta l'Italia, subito dopo l'intervallo per l'aggiornamento delle strade ne sentiamo di carine. Oh, non tutte le vuvuzelas vengono per nuocere, perché 30 secondi fa, mentre andavano le notizie sul traffico, è stato fermato Van Persie, l'attaccante centrale dell'Olanda in fuorigioco. Lui ha fatto finta di non sentire il fischio arbitrale, ha continuato l'azione, ha segnato con un pallonetto. Con la severità arbitrale di questo mondiale era ammonizione assicurata, e invece lui ha fatto cenno all'arbitro. Si è indicato le orecchie, no? Dicendo che non aveva sentito il fischio, e tale probabilmente anche oggi il fracasso infernale di Steve Vuvuzelas, che l'arbitro l'ha presa per buona e dunque non l'ha ammonito. Sempre 1-0 per l'Olanda nei confronti della Danimarca al quarto d'ora abbondante ormai del secondo tempo. Vi parlavo di questo abbondante Amarcord che Nicola Filippone ci ha inviato oggi, a proposito del 14 giugno. Sembra ieri. 14 giugno 1982. L'avventura azzurra al Mondiale spagnolo parte da Vigo contro la spigolosa Polonia. L'Italia soffre la classe del neo-juventino Zbigniew Boniek e risponde creando una serie di iniziative pericolose che culminano in una traversa centrata da Tardelli. finisce 0-0, senza che riesca a incidere sulla gara l'atteso Paolo Rossi, il centravanti scelto dal CT Berzot, malgrado fosse da poco tornato all'attività dopo una lunga squalifica. Quando l'Italia ritroverà la Polonia, a sorpresa in semifinale, l'8 luglio a Barcellona, Pablito, sulle ali dell'entusiasmo per la tripletta al Brasile, andrà a segno due volte, trascinando così i compagni a Madrid per la finale trionfale contro la Germania. E questa era la prima parte di una, ricevo, ricca citazione, perché poi Nicola Filippone ha scovato altri 14 giugno. Allora, il più celebre di tutti è quello del 1970, il giorno del debutto della staffetta. Quel giorno venne inventata la staffetta tra Mazzola e Rivera. Era il quarto di finale di Messico 70, l'Italia giocava con i padroni di casa, Italia-Messico 4-1, ma con questa differenza, che nel primo tempo ha segnato il Messico. L'Italia aveva pareggiato con mille problemi su autorete di Peña, e poi nel secondo tempo l'ingresso di Rivera e tre gol di Riva, dello stesso Rivera, e di nuovo di Riva. Sempre il 14 giugno, che è un giorno evidentemente ciclico per partite azzurre, Italia-Germania Ovest 0-0 nella seconda fase di Argentina 78, una partita che l'Italia dominò, colpì, non ricordo se almeno tre tra pali e traverse, due delle quali di Bettega, questo lo ricordo. Ancora un 14 giugno nel 90, Italia-Stati Uniti 1-0 a Roma con gol di Giannini, iniziale. Beh, insomma, mi pare che capiti spesso all'Italia di giocare in questo giorno. Tutti i precedenti che vi ho letto mi paiono ampiamente favorevoli e quindi forse non tanto quello della Polonia, insomma non sarebbe magnifico cominciare con uno 0-0, ma è anche vero che affrontando poi Nuova Zelanda e Slovacchia dovrebbe già essere abbastanza tranquillizzante, anche se ovviamente la squadra punterà alla vittoria. Maurizio ha chiamato da Bari, buongiorno. Sì, salve Galanzini, io sono troppo giovane per aver assistito alla famosa staffetta, però ho assistito l'altra sera alla partita dell'Inghilterra e quest'oggi mi imbattevo nei vari commenti massacranti che i tabloid inglesi hanno riservato alle scelte di Capello. Io l'unica considerazione che vorrei fare è che questa squadra, forse quella dell'Inghilterra, è figlia dell'equivoco tattico di Gerard Lampard, perché visti insieme non sembrano esattamente la coppia centrale più forte del mondo, nel senso che avrebbero, secondo me, ma naturalmente Capello ne sa più di me, avrebbero bisogno dietro di loro di un mediano basso, diciamo un De Rossi, un Cambiasso, che liberi loro dalle incombenze di star dietro e impostare la manovra. E vendendo così anche più liberi gli esterni e l'uomo di attaccare soltanto. E quindi aggiungo brevemente un'ultima riflessione da girare a Mourinho, che proprio per queste distinzioni che faccio fra Gerard e un De Rossi, un Cambiasso, quello che servirà a Mourinho da portarsi a Real non si può ridurre alla dicotomia Gerard-De Rossi, ma o uno o l'altro, perché non sono esattamente la stessa cosa. Va buono, grazie Maurizio, faranno tesoro di questi consigli. Nel frattempo noi ci riascoltiamo una marcord di quella l'Italia-Polonia 82, giocata, ripeto, il 14 giugno di 28 anni fa al Balaidos, allo stadio Balaidos di Vigo, e la ricostruzione di Flavio Suardi. Le formazioni sono quelle annunciate. Un gol sulla sinistra, si libera Jaloha, prosegue ancora l'azione, Ivan Jaloha libera Tardelli, Boniek. Tiro di Boniek fuori. Arrivavo da due anni di squalifica, avevo giocato solo alcune partite, per cui riprendere, come dire, il ritmo della gara, rientrare mentalmente dentro le partite era molto difficile. E Rossi in posizione di ala destra, lo ferma Janas, che poi però mette in faro laterale. Pessima partita nel secondo tempo. Si fermano i polacchi e la partita finisce così, 0-0. Bellissimo primo tempo, squallida ripresa. Nessuno ha mai considerato la Polonia una grande squadra, invece poi dopo la ritrovammo molto più avanti, quindi lo 0-0 non è stato un cattivo risultato. Cattivo risultato non lo fu di sicuro, tra l'altro ci fu anche una traversa di Tardelli nel finale che insomma, che non è finita in questo assemblaggio in cui avrete riconosciuto le voci di Paolo Rossi prima, beh, la voce storica di Martellini ovviamente, le voci di Paolo Rossi prima e di Dino Zoff poi. Adesso, a proposito di voci, visto che siamo ormai non lontani dalla chiusura, potremmo sentire qualche voce di italiani o di stranieri in Italia, come mettiamola così, che sono attualmente impegnati in Sudafrica, dove in questo momento siamo a 68 minuti, quindi a metà esatta del secondo tempo, e grazie a quella sciagurata e incredibile autorete di un difensore danese, l'Olanda sta continuando a vincere per 1-0 sulla Danimarca. Cominciamo da Asamoah. Sì, sono molto contento perché prima della partita noi pensiamo che tutti gli africani vengano a supportare il Ghana. Adesso siamo tutti contenti, siamo primi africani che abbiamo vinto questa partita, la prima partita nel mondiale, quindi siamo tutti contenti per questo. E questo era Asamoah. Passiamo a Kuzmanovic. Kuzmanovic ieri l'ha combinata davvero molto ma molto grossa con quel fallo di mano nella sua area che ha condannato la Serbia al calcio di rigore e di conseguenza alla sconfitta, un raptus vero e proprio, inspiegabile persino da lui, visto che è andato avanti abbastanza a lungo a protestare con l'arbitro, chissà se non rendendosi conto davvero della sciocchezza combinata, oppure perché la sciocchezza era talmente enorme che in qualche modo andava difesa. Kuzmanovic. Io ho sbagliato questa situazione per il gol, è stato mio errore perché ho preso con la mano, sicuramente che non volevo fare, ma ho fatto. Sì, ma non volevo fare con la testa e la mano è stato su. Ho sbagliato io e per questo abbiamo perso e io penso questo è stato il mio errore, posso solo dirle scusa per la squadra e tutto. Noi abbiamo sicuramente meritato fare un pareggio perché un punto è un punto, ma in questo momento che ho fatto io e questa preso con la mano abbiamo perso la partita, e ora siamo con 0 punti e voglio dire che sicuramente questa non doveva succedere perché in questo mondiale tutti i punti sono importanti. Ha avuto tempo evidentemente prima di queste creazioni Kuzmanovic di vedersi le immagini e di capire che l'aveva fatta davvero davvero grossa. Chiuderei con un flash d'agenzia che arriva da Parigi, ma che in realtà rimbalza dal Sudafrica, perché Zidane ha fatto il seguente commento su Domenech, sul CT francese. Domenech ha fatto una selezione, ha scelto dei giocatori, ma bisogna pur dire ad un certo punto che se questo gruppo non esprime un gioco di squadra il responsabile è lui, perché è lui che comanda. Certo, ha poi aggiunto Zidane, in campo vanno i giocatori e sono loro che devono metterci qualcosa in più. Ma io ho visto solo azioni individuali, proprio non c'è gioco di squadra. Grazie a Filippo Aureggi in regia, a Flavio Suardi in redazione, appuntamento a domani. A tempo di sport.